Ma quanto costa la felicità? Non ci resta che essere felici senza. Se cerchi ancora la luna, allora buona fortuna. Dimmi che tempo fa da soli, segno bandiera rossa in questo mare ci affoghi. Tu mi mandi fuori ed io rimango fuori. Proiettili a silenziatore dentro i miei pensieri, due biglietti in tasca e non siamo mai partiti. Chissà com'era poi domani se non ci fossimo divisi. Ma quanto costa la felicità? Non ci resta che essere felici senza. Se cerchi ancora la luna, allora buona fortuna. Quanto costa la felicità? Non ci resta che essere felici senza. Tu non avere paura, ti dico buona fortuna. A volte una sola parola può fare un gran casino, come gli schiaffi sulla faccia che coprono il sorriso. Se avevo detto di andarci piano, io non mi sono pentito. Sì, non mi sono pentito, no. Mi guardi con gli occhi di Mona Lisa, mi guardi il profilo e non il viso. E chissà com'era poi domani se solo fossimo partiti. Ma quanto costa la felicità? Non ci resta che essere felici senza. Se cerchi ancora la luna, allora buona fortuna. Quanto costa la felicità? Non ci resta che essere felici senza. Tu non avere paura, no. Ti dico buona fortuna. E ti ho cercato in tutta la città, tra il traffico e la vita. Io ti ho aspettata come quel regalo che poi non arriva mai. Potrebbe essere già qua. Sai pa, mi ricordo qualche anno fa, tu che me lo ripetevi sempre. Tu puoi arrivare alla luna, se tu puoi arrivare alla luna. Quanto costa la felicità? Si può essere felici senza. Tu non avere paura, ti dico buona fortuna. E allora buona fortuna. E allora buona fortuna.